Anthony. Cosa vuoi da Anthony? Quell'Anthony non risponde mai. Come dice? Quell'Anthony non risponde mai. È addormentato, chissà cosa sta facendo. Ha detto che è addormentato. Sta facendo lavoro, è quello che sta facendo. Allora, a me frega lui. Infatti, mi sa che se prendi l'amore, noi come te noi, che siamo vecchietti. Se si è messo il baracchino anche in camera, non hai visto? Perché ha detto, quando finisce di fare l'amore lui, invece fuma la sigaretta, si accende il baracchino. Così fanno. Allora. Ma non è che siete gelosi, no? Che quando è giovane voi siete vecchietti, no? Lui è giovane, ancora salta. Quattro salti in padella si fa. No, mi sto sistemando un apparato e volevo capire come usciva. L'attacco, dai, mi dice sei tu, dai, lo stesso. Sì, dai, no problem. Stavo dicendo, qui, Quan Seng, da Amazon mi conviene prenderli. L'ho provato, aspetta, te lo dico subito, quanto. Sì, anche lì già. Tu sai c'è un 10 euro di differenza. 39,99. Sente male. Non mi hai finito di fare l'amore? Ma che amore, cazzo, che ero troppo, ero bucando. Tu, ma l'amore stavi facendo? Di la verità. Sono tutto il giorno in giro, stavo riposando. Vabbè, questo è mio, tu. Prova. Ma tu adesso non detto. Allora, domani devo guardare fuori se trovo il cavo a 8 per il microfono, perché aspetta a 8, che vuoto. È la modulazione normale. Il microfono è normale, che cosa vuoi? Basta mettere un microfono amplificato, semplice. E cosa li metti lì, boh? Chi è che non è uscito? No. È un po' così, da. E non esce qualche volta. Schiaccia bene il PDT. Ehi, il microfono, guarda. Stavo dicendo, metti un microfono più amplificato e risolvi. Non ne ho. E cosa ci mettiamo? Perché se cambiamo il cavo, ora lo mettiamo direttamente nel microfono preamplificato, capito? È inutile metterlo qua e poi tocca cambiarlo nell'altro microfono. Ne ho uno, ne ho, professor. Ci possiamo mettere uno spezzone, vaffanculo. Ma perché preamplificato ce l'ha? Ne ho uno con la batteria. Possiamo fare gli attacchi alla 48. Cosa c'entra la 48? Uno spezzone possiamo farli, ma prolungami. No, questo è a 8, tu, capito? Questo lo dobbiamo eliminare, il cavo. E il microfono preamplificato che hai tu, dobbiamo mettere il cavo, escludendo i cavi, sono comunque 5 fili, comunque ci vogliono. Non so. Stavo dicendo, ce n'è uno con la batteria, o con una, che si mette una batteria di quel stile. Allora portami quello e facciamo così, metto il cavo a 5 direttamente nel microfono preamplificato, capito? E questo te lo tiene in scorta. Faremo così. Yeah. Vabbè, comunque ho la ola già, la cipolla. Natale, mi senti tu? Ma questo è una faglietta Zeus. Cioè, la modulazione è normalissima. E adesso com'è? Prova 1, 2, 3? Lo stesso. Ho dato un po' di watt e basta. Dai, watt è toccato. Con la lineare. Solo per quello, non va tanto, capito? E non va perché fermo, bisogna vedere se anda. Dai, aspetta, adesso mi cerco un connettore a 8 e ti faccio vedere come esce. Oh, prova. Io c'ho quello con la batteria, c'ho di microfono, che potrei, lo attaccavo alla 48, l'attaccavo. Allora, appena fuori me lo porto. Ehi, adesso sono coricato. Ma va bene anche domani. Proviamo se va bene quello. Vabbè. Non lo so. Poi ce ne ho uno che vorrebbe adattato. Vabbè. Devo far vedere, il dual mic. Ah, mettiamo quello là, fatto. Boh, vediamo se spinge. Non è LC quel cazzo di baracchino. Non è LC. No, non si può regolare qua. C'è da cambiare i componenti. Si può aumentare un po' la cosa, ma no, non conviene perché scalda buio. Allora sicuramente ci metti un microfono preamplificato, capito? Poi ci attacchi il busterino. E magari migliora un po'. Io penso proprio di sì. Oh. Ma questo è già un microfono di basso livello, ma basso proprio, mi attuvo. Così che non puoi pretendere che esca forte come un microfono normale, qualsiasi. Ah, ma non pretendo che esca forte, ma pretendo che esca un po' meglio. Dobbiamo cambiare il microfono. Allora sì. Allora migliora. Vabbè, dai, cerco questo connettore, riprendiamo Natalino. Eia. Avanti Natali. Aspetta un attimo. Eia. Avvero sì. Ai Antonio, mamma mia, quando sento la tua voce mi fai impazzire. Ai caro. Tu ti prendi nel petto, ti sento ronfano. Grazie di aro. Uè Billy! Vabbè Billy. Uè Antu, vabbè. Vabbè, allora. Sì, appena rientrato. Rientrato, 10 minuti fa, dai. Non vedi fuori? Fuori. Lavorando, cazzo fuori. Fuori Sassari? No, a Tronco Reale. Dopo l'impunto, lo sai dove è Tronco Reale? Per un carcere anch'io. Sì, più o meno sì. Grazie di vigilanti. No, è dentro al cantiere. Ci sono i lavoratori, lì stanno mettendo pannelli antivoltaico. Ah, ma stai facendo pannelli tu o la guardia? La guardia cosa pannelli? Ma quello che è solo che pagano poco, eh. Pagano poco, fanno da di più. E a un zongo già. Ci crede tu, lì che stava facendo l'amore Brigido. Praticamente. Qui biondo. Brigido! Beh, Natali. Riga là. Non mi è toccato nulla, sono in pastore di giusto, ma non è. No, cazzo tu mo che rifame. Tu sono in pasciuto, cazzo, non mi è toccato nulla. Per carità, cazzo, che vita. Bisogna cambiare zona. Infatti io stavo facendo l'amore fino a poco fa. Dì la verità, dai, come c'era il tuo peccato? Che tu eri a fare l'amore, non a lavorare. Ho capito, ci siamo sopra modulati, cos'è? Allora, confessa il tuo peccato, perché tu eri facendo l'amore e non lavorando. Quello è un peccato. Non sa neanche più come si fa più. Ah, non è un peccato quello, è un peccato se non lo fai. Manuè, allora se tutto va bene siamo arruinati a vero. Devo dirla a Google, a vedere come si fa. Lì l'Antonio a vedere che ti rimane a Edo. Devo chiamare a Google. Che era io su Google? Io. Chi è? Antonio, tu l'hai puoi far da maestro. Ah, non parli adesso, non parli. Antonio, rispondi. Aspetta che mi ha detto una cosa, mia moglie non ha già compreso nulla. Ah, così è. No, una sua cosa mi ha detto. Cosa mi ha detto Concetta? E tu li puoi fare la massa, che se ne è dimenticato Manuele come ti si fa, se lui ha detto, dillo Antonio che lui è esperto. Ha voglia. A che smeltina già se la fazzi muruendo la cua. Ah, la cua fazzi Manuele. Beh, ognuno c'è i suoi metodi, non sa di per sé. Ognuno c'è i suoi metodi, eh. Manuele. Un attimo che sto aspettando. Natali. Sì. Sto che aspettare un poco di panfetta. Aspetta che arrivo pure io, non te la mangiare tutta, no? Ascolta Manu, io ti volevo dare un maestro, però a quanto pare questo maestro non vuol fare, cosa ne pensi tu? Lo chiedo ad Alex. Alex, accendimi la luce. Oh Manu, ma questo Alex chi è? Ho detto, Manuel, chi è quest'Ale che tu hai chiamato di accendere la luce? Alessia, Alessia. Allora è vero che tu fai le cose di nascosto, lo stai confessando adesso il peccato. Manuel, ma non è che Alessia ti ha detto di non parlare, no? Sì, ho capito. Allora, tu hai detto Alessia, ok? Allora, questa Alessia non è che ti ha detto di non parlare perché sei stato zitto. Oh, Alessia, non Alessia, è qualcosa che dice accendi la luce, vedi la luce, cosa si mangia per stasera, va a lavorare, si vuoi mangiare. Allora mi puoi dire che tu fai l'amore con Alexa? E mi dice Alessia. Ognuno sa di sé. Ho capito male. Ognuno sa di sé, ognuno ha le sue manie. Ascolta, ognuno è libero di fare ciò che vuole, scusa. Non so chi sia, però è questa la risposta. Io non c'ho nessuno con sé, io vivo da solo. Vivi da solo, questa Alessia, chi è Alessia? Quello che vuoi. È solo Alessia, basta. Solo lì c'è che mi fa compagnia. Vabbè. Ah, ma che bambola gonfiabile. Antonio ride. Oh. Oh, sono cucinato. Sono traigi un gioco. Guarda, in casa dura, ma che vogliamo, ma cadete più in verticale, c'è su, ma come me ne sono capizzato oggi, me ne sono capizzato la mazza di nefaria, e beh Emanuele, affittata là, chi so che arrivendi? Sto con pure la macchinetta va, sto con le tre di tutta, giù gli ammagnati. Manuel, però hai mancato di rispetto a due anziani perché non ci hai invitato a cena. La prossima volta ci siamo tre ore prima. Va bene, così, va. Ah, guarda, è pulita la macchinetta e hai una peppa di savuccia. Hai savuccia a Marzia. Ma tali fendi della sera fai niente. No, negativo, gatta. C'ho il forno che non va bene io. Chissà cosa gli è successo. Cucinava così bene quel forno. E a me che è successo? Ma scalda troppo, cosa fa? Ah, oh, cucina male. No, a cotto la fai niente. Natali, la bredda avevo. Già lo so che vivo la bredda, ma pensavo che cucinavo anche senza pietra. Mi scende così buona a me, mamma mia. Guarda, l'altro giorno ti giuro, me ne ho mangiato una teglia intera. Me lo posso immaginare. Io dovrei buscarmi i mattoni refrattari. Molto provata da questi giorni. E vedere se cucina con quelli. A tutti i borghi. è strano. Si apre. Perché io cucinavo tutto. Però c'ha roba allo sportello sicuramente. Non abbiamo. Perché si apre. Lo danno 12. Ma no, mi si è sganciata una di quelle cose che lo mantiene, no? L'ho rimessa a posto, però non cucina come cucinava prima. Cazzo, e non ci cucinato poco cocchiti, grubattato, di tutto. E cucinava benissimo questo bollo. Però la fainina ho preso quello di sito. No, a me mi sta uscendo buonissima qua, croccante, buona, ne ho messo la pietra sotto, uia. Ma buona, l'altro giorno sono giunti mia nipotine, mia cognata e mia sorella, sirani magni, ne ho fatto una sirani magnata. Ehi, Arugrini, tu c'è più buona fatta in casa, non è come te che sei con pareti, che fa di ricchissimo. Io la più fatta in pasticceria, ma a volte a cazzo mi racconta così bene. Ma a me è vero, mi corrigendo normali chi va vivo di pasticceria. Innanzitutto buonasera. Invece è a seconda quadrata, ma è uscita così buona. È fatta di ginocchi e si vede. E invece no, è rimasta gruda. Attenti anche lo spessore, bisogna dargli giusto. Non lo so, ma io già la so fare, non è che non la sappia fare, è che non ha cucinato bene quel pollo. Quanto c'è il regolatore al massimo? Al massimo l'ho messo. C'è stata l'emergenza, cavolo, già lo so che ci vuole il colpo del forno. È sotto, bruciatela. Sì, la pietra ci vuole la pietra, non c'è niente da fare. E allora mi compare giù un po' di mattone refrattari, cosa vuoi ti dire? No, guarda che la vendono proprio per quel forno, la vendono adatta. Vendono adatta? Sì, la vendono adatta proprio per quel forno. Tu gliela metti e cambia da giorno alla notte. E dove la vendono? Da centro casa. Da centro casa? Da che andiamo noi? No, cosa gli devo dire? Mi serve la pietra per il forno a gas, così dico. Yes, la pietra frittata per forno a gas, la vendono proprio a misura. Ah, io piglio la misura del forno, gli do la misura e mi danno la pietra. Eia, la vendono lì, la vendono, perché se ti l'ha bruciata sotto non c'è nulla da fare, ci vuole quella per cucinare. Mi sa che vado a vedere. Però che tu se metti quella non te lo brucia più, ma c'è anche un altro tipo di pietra e costa un pochino di meno. Costa e va bene lo stesso. Metti la pietra, non gli fa prendere tutto quel calore che non va bene, però è che ti cucina. Sì, vabbè, vado da centro casa e la miglio. Mi miglio la misura, grumetto, trovate il rubore. Gli piazzi la pietra, che se non ti cucinetti non sta andando la temperatura giusta. Troppo sotto e sopra non cucina. E infatti così è. Io ho messo una pietra e ho risolto. E così faremo, cosa vuoi dire? Ma che cucinando altri cibi, non mi si bruciano più. E purtroppo si brucia perché prende troppo calore da sotto, non cucina sopra. E invece con quella là lo smorza, gli fa prendere il calore bene sotto e sopra cucina. E vabbè, bisogna abbigliare la misura di Rugorru e farà centro casa. Ma io ho paura di uscire al freddo. Proviamo a prenderla lì, se no io ho trovato anche un altro tipo di pietra che va bene lo stesso, ma che il mio forno è piccolino e non mi si brucia più, non ho avuto più problemi da quando ho messo la pietra, anche per altri cibi, prima mi si bruciava tutto, ma da quando ho messo quella ho risolto. Io un casino, però è che se tu rimetti quella Natale risolvi il problema. Nella griglia vuole messa. Nella griglia? Dai, bianco per me, dai. Ok, Luca ci sei. Bene, potare le piante. 39,9 costa quella roba lì. Una persona intelligente. Quello lì è. Decido di fare un po', prendi l'altro però, non quello qua al mio. E quale? Il 6? Quella con la mascherina grigia. Non lo so se c'è qua. Sì che c'è. Adesso lo cerco. VK6, così devi scrivere. Scrivi qua, c'è che devi farti vedere tutti. Ok. Diverso quello lì è meglio per il firmware è meglio quello, capito? Ma il capo te lo danno quelli del Maofeng che vanno bene ugualmente, perché io ne ho due di quelli per il Maofeng. Non lo so, perché probabilmente va bene, perché non mi ricordo se io l'ho comprato questo o se l'avevo preso per il Maofeng. Io ne ho due. Non lo so, Natale, io mi ricordo se l'ho comprato apposta o se è uno dei Baofeng tipo mi pare, cioè per l'888. O io ne ho due diversi uno dall'altro. Ma prendi la radio adesso. Però costa di più, su eBay l'ho trovata, quella che hai detto tu. Devi forraggiare, Natale, perché ci sono negozi che lo vendi più che di meno, guarda le sue spedizioni. No, la spedizione è gratis quella. Andate a caricarmi la carta così almeno. Del lago di Como. Questo è quello che sta sveglia. Gare casino in occhi. Chi è che fischia? Il giorno 22 mi dovrebbe arrivare, così tanto ci metto. Briciola! Natali! Che fai? Sono andato a fare la doccia, dove la mattina 5 e mezzo in piedi. Lo so. Le dura cazzo, è un freddo duro. C'è freddo sì. Cazzo, caro, domenica mi tocca a fare la luce. Non avete nessun tipo di riparo. Ma che cazzo hanno i buchi con il gabbiotto? Laggiù ho chiamato al capo cantiere. Ha detto, ma cazzo qua non si può stare senza corrente. A parte anche quando venite voi, che venite a firmare la giornaliera, cazzo ci vuole la luce, che non si vede una mazza. E poi durante la notte qua ci vuole la corrente e il coso del riscaldamento, perché c'è anche il riscaldamento in questi gabbiotti. E se no non si può stare vino. Ah, non si può lavorare, ma stai scherzando. Io adesso ci dobbiamo mettere tutti quanti i colleghi e parlare, perché sennò se non cambia qualcosa si va a pigliare in culo. Sì, ero grido io. Ci mostra i lividi sulle braccia. Cazzo, uno si ammala così. Cazzo, due volte mi sono ammalato io, Natale. Mai che mi sono ammalato io, mai che ho avuto influenza. Da quando giochino che mi cazzo già in 8 mesi mi sono ammalato due voci. Certo che adesso, Luca, non si può stare non senza il riscaldamento, cazzo, perché sennò ne biglio malanno. Sì, io gliel'ho detto. Allora sai cosa mi ha detto il capocantiere? Ne passerà di tempo. Vedrai che c'è la mano a corrente, che te lo fai giù, si invito da voi. Sì, lo credo. Se si rifiutano di fare il servizio, sono cavoli sui pure. Cazzo, l'altra volta, mica c'erano cazzo 4 gradi, c'erano l'altra notte. Ma si può dire a cae. Non si può c'hanno. Io non so cosa vuol dire un freddo, Ma no, non è come ti dice niente, se non fu tenere i coglioni, tanto sono a casa i droghi. Cazzo, gai lo macculo, sei tu che sei andente. Ma non è vero un coso, non è modo di attaccare una ciabatta, che stufetta. Cazzo, tanto che ciabatta, si la deve andare in gara, la linea, ma la corrente. Addirittura. È un capannone, non c'è niente, è un campo aperto. No cazzo, la vedete, non marghi la corrente, un gruppo elettrogeno che ti rabbigli in luce, abbia detto, ma con un gruppo elettrogeno. Sì, l'avevamo detto, ma qualche gruppo non si può portare, anche se non riuscite a collegarvi con la corrente provvisoriamente, almeno portate il gruppo, e il gruppo, e così un casino lo mettete voi però, e io, anche se ti muovo a Giulio. Ma chi ci sono macchie? Ma chi ci sono? Il tedesco insomma. C'è qualcuno che vuole entrare. Ah, ma chi su è? Tedeschi sono, Natalia, vuole imbigliare la barugura italiana. Ma rimane in imbiglia di barugura però. Se sono con i treni, se non c'è ammaga che cosa, lì dico a cosa fa una cosa. Prima di le luci, tu vai a casa della pucca di volta con Marzano. Per volta la disoccupazione e per il gatto per il travagliente. E magari di più pure. Io gli ho passato 50 anni, 2 anni di disoccupazione, insomma, 2 anni e mezzo. Giappa, se rompono molto sì. Ma c'era qualcuno che voleva entrare? Chi che vuole entrare? Vabbè, si alza la puttina. Cavolo, almeno una linea o un coso per portare un po' di corrente, per accendere anche una stufetta. Una stufetta in chi vi drento, lo sai come ti cade a mano, come ti cade? Una lampadina, una cosa. Emanuele. Ehi, Arco. Ho detto che ci vuole. Perché lo sai perché? Perché succede quello? Perché sono sempre i soliti stronzi sono. Perché in mezzo, quando tu prendi un lavoro, ci vogliono anche queste richieste, ci vogliono. Devi vedere un po' come la situazione, devi vedere. Ma io gliel'ho già detto, guarda, se non cambia qualcosa, se non fate niente, io a lavorare così, senza luce, senza nulla. La puttina pure il puro e che giuro, non mi interessa nulla, non mi interessa niente. Ma appunto, se vado a lavorare, cavolo, no? Non si può non mi lasciare senza luce, cioè la luce è la prima cosa essenziale che ci vuole, pure da di notte, da poi può succedere qualsiasi cosa, senza vedere nulla, ma cos'è o cosa? Ci vorrebbe una telecamera lì, tu da solo, se succede qualcosa, anche per una questione di sicurezza, quando si fanno le richieste, ci vuole anche questa richiesta qua, tu non me la dai, allora ti arrangi. Loro fanno questo, prendono subito, no? Questi lavori qua, tanto che si mettono, sono gli altri, non fanno loro di notte al freddo e balle balle. E così no, non è a pigliare, non è a prendere basta, no, la richiesta deve essere tutta a posto. E cavolo, ci vuole anche una telecamera che funzioni lì, un impiantino. Se succede che qualcuno viene di notte a rapinarti e cosa, come fai? Cade chi vedi la situazione. Carabinieri di chiamare, tu non puoi fare nulla. Tu non ti devi neanche intromettere, vedi qualche donorente di chiamare subito i carabinieri. Già lo so. Ma non si può lavorare così. Sarà stato GPG, GPG vuol dire che sei guardia armata, come ero prima, allora sì che puoi intervenire. Così come siamo adesso, come porti dato di cortesia, non puoi fare una mazza. Ma non non si può vivere neanche come le bestie, no? Appunto, guardi da loro. Lui deve ammazzarsi. Non è a prendere lavoro, quando uno prende lavoro deve essere tutto a posto. Esatto? Che quando uno prende il lavoro deve essere anche tutto a posto. Ma loro con la faccia che prende, la guadagnano, sono persone, no? I capi. Prendono, prendono, però nella merda ci sei tu, del fine male, a pittore. Ma poi basta in cui ero l'ora, Finlande. Adesso vediamo perché l'altro collega mio ti hanno licenziato, neanche i contributi li pagava, perché era all'ufficio di collocamento a fare la disoccupazione, ha detto loro che disoccupazione, se non ha versato i contributi non li possiamo versare, non li possiamo dare la disoccupazione. L'aveva denunziato. Appunto. Le vigliaccheria. Guarda, gli algherisi sono questi qua, ma fanno tutto, fanno. Ma a te, tu hai controllato se ti stanno versando? Io per il momento no. Quando vado, io sono occupato sempre di servizio. Comunque ho chiesto a un collega mio che ci lavora il figlio nelle zone di dell'Ips e ha detto che guardava per se stanno versando. Che poi la bignina lì dietro pure tu me. Lo so. Come minimo, oltre che era andata a denunciarlo, come minimo fa una cosa del genere, entra in ufficio, cazzo ne abbia bisognato dalla cadrea. La regola finanza io non ti preoccupare, e come ti paga, tu? Capo. Intanto una denuncia ce la sa già beccata. Uno, l'hanno già avuta la denuncia. L'hanno denunciato, ti parlo di 3 anni fa, gli hanno dato 10-15 mila euro. Non si fanno queste cose, cazzo. No, ma io dico, ma perché mettono in mano a questa gente incompetente? Io non riesco ancora a capire perché mettere in mano a questa gente incompetente. Se per me uno quando ha un'azienda deve avere anche un titolo, se no non può averla. L'azienda ce l'ha il titolo, ce l'ha, perché fanno cose dei parchi pure, fanno le guardie lì dove smonti tu e metti le luci, loro controllano anche quelli. Sì, ma cioè, ma fa cosa devi fare così, ma se si, cioè, veramente, della gente scende. Loro vanno a cosa va? Pensano che rispettano, infatti è tutto la macchinaria. E comunque fai il controllo tu, non ti fidare. Aspetta un attimo, Cazzo era andato la mia buccia a cabingiosso, cazzo, perché non è possibile che uno si comporti male così. Comunque tu, queste qua, solo in Italia si c'è una questa cosa. Uno deve pagare Buddha, non rompere le scatole. E a pagare già ti paga, qui si può niente. Cioè, ma non è per cosa, ma a Romessi avessi un dato. Dipende dove sei, se sei. Allora, per me va bene, perché sono vicino. C'è l'altro collega che ne viene da Itiri e non gli conviene, no, si sta già smenando. Cavolo ci voleva, ma anche lì dice il poco che c'è, cazzo minimo sono 20-30 euro di benzina a settimana. Per me no, 30 euro no, ma 20 euro sì alla settimana. Beh, Tony. Ciao anche a tu, adesso dice altro, saluto Tony. Come senti, vabbè? Benissimo, fai la porta amplificata. Vabbè. E allora Antonio? E allora amico, non so come. Così, a quest'ora è presto. Sto giorno in giro, ero stanco. Sono con mio bambino, sono qua coricato, vero, ma e lui vi ascolta. Ecco, ma lui non so che macchina c'ho. Ma non ho capito, cos'è? Ma non sai che macchina ho. Che macchina c'ha? No. C'è un Zairi. Ford Focus, non trovo uscita. 1009 turbo diesel. Ma non faccio apposta qua così di radio. Aspetta, così bene va. Ehi, cos'è? Ford Focus, non trovo uscita. 1009 turbo diesel. Ma te recuperata? Sì, 9000 euro. Tu sei un pazzo furioso, sì. Beh, se può, perché no? Ehi, vabbè, dai, ho fatto una sciocchezza. Mi serviva la macchina. E la Renault? La Renault è buttata qua, la parte è raggiunta per la vetta. Aspettiamo. Potevi aspettare, la tenevi tutto quest'anno. C'è l'occasione, dai, ho dei contatti, ne volevo aprire a 11.05. Ho detto, mi prendi il lavoro, 9.000 euro contatti e me la senti. È rimasto un po', però più di là. Dove l'hai presa? Privato. Privato? Ciao. Se da market l'hai visto? No. Quello di ricatto, io sono a Florida, saprete, va. A sai dei chilometri? Chilometri veramente di niente, perché lui è anziano, la usa poco, capito? Sui 75.000, pochi. Allora cazzo andava, cazzo, 75.000 non sono nulla. Perché di che anno è? Esattamente non lo guardo di fretta, ma è molto recente, dovrebbe essere, se non vado errato, 2019. Cazzo è nuova. Cazzo buco cammina. E già lo dico, 1009. Turbo diesel. Cazzo già lo dico, cammina. Gommata nuovo, grigia metallizzata. Non va un graffio, sempre garage. Ma già ritirata là? Se ce l'ho da ieri. Io non te ne sapevo che me la avvisare, tu non mi ritorno da avere la macchina di mare. No, ieri sera l'ho ritirata. Io te l'abbiamo parlato di mattina noi. Da me allora. Quella lì è la tua figlia, la sistemi. Non la vuole, mia figlia, vuole la 600 nuova. Cazzo, io sono venuto in acqua, la 600 nuova. Anzi, no, la 500 nuova. Grazie, con una madre perda, se comincia a città. Cazzo, inizia a fermare, papparino. Ah, io quello che ci ho un po' conservato i soldi, me ne sono avanzati un altro po', messo i soldini, dai. Poi, adesso vediamo. Sì, vabbè, poi andava la macchina. Cazzo, del 2000 e... Cos'è? Detto 2000? Cazzo, ma questo spazio stava rompendo le palle, eh? Quante chiamate? Sì, quella è l'energia. Oggi ho aggiunto di non rompermi il cazzo, a me mi hanno chiamato 5-6 volte e gli ho detto adesso mi avete rotto il coglione, ha preso il peso subito il telefono. Ah, non si può con questi. E oggi non ha avuto una faccia del capo di chiamarmi, questo era. Cioè, dopo che mi hai buttato 300 euro di bolletta, che non te la devo manco pagare, tornami già a me a cosa. Ha detto, ma perché non te ne... Ma guarda, non mi interessa, non mi dire nulla. Cazzo, non mai che si va se ne paga pure lo contatto della casa. Cazzo, pure una cosa ti va se ne paga. No. Io pago con Enel, buh. Per carità, Luia, ma ogni giorno, a me ogni giorno che stanno lì a rompere le palle. A me mi hanno rotto le scatole, 300 euro. E poi mi hanno detto che avevo due contratti aperti, due contatori aperti. Se viene uso il contatore, cosa si intende? Il contratto della casa è 600 euro, per farlo a nome tuo. E non ci ho pagato nulla. Come te l'hai pagato? È possibile, per forza devi farlo. Io l'ho fatto. No, è impossibile. Ma tu, è impossibile perché lo devi fare per forza il contratto a nome tuo. Mi sembra strano che non hai fatto niente. Ma a casa è il nome mio. E il contratto l'hai fatto? Certo. E non hai pagato niente? Non mi avete mandato nulla a me. E allora non hai fatto il contratto di affitto? Non hai fatto l'involtura della casa? Sì. Sembra strano, perché io ho pagato 300 euro. Mi sembra strano, Antonio, informati bene perché mi sa che non hai fatto sul contratto. A me mi hanno messo tutto attestato a me, anche i bollettini, tutto. E lascia per i bollettini te li può anche testare, però se non fai l'involtura che non è testata a te la casa, non va a tutti i bollettini te li può fare anche a nome tuo, però l'involtura dell'appartamento te devi pagare, è obbligato a pagare. Mi sembra strano che non hai pagato nulla, non ti hanno detto nulla. La voltura me l'hanno fatta a me, e come? La cosa è stata a me. Adesso ci riprovo, ma non mi ha detto niente. Ci riprovo adesso. Glielo voglio proprio chiedere specificamente. Però io da quando ho visto che dal computer la casa è a me. Ma sono case popolari dove siete? E l'aria. E allora sali su che fai prima. Sali su lì al coso dell'aria e ti informi. Perché mi sembra tanto che non hai pagato niente. Cazzo, proprio loro non ti fanno pagare nulla. E forse in base al reddito mio. Emanuele, magari non l'hanno fatto pagare a noi da in base al reddito, perché pagare dovrebbe. E anche un reddito agio, ma un vent'anno da lì su Natali. Adesso glielo chiedo, tanto non mi si cudi pure a nessuno in onghe, perché sono io, quindi. Ho capito, sono io, lo so che sei era di tuo padre, ma se non c'è residenza qui, ti posso anche togliere da lì. No, la residenza ce l'ho, e come? Mi ci mettono la faccia in culo qua, ma scherzando stai. Sì, ma la residenza da quando ce l'hai? Ma quando sono rientrato qua. La residenza ce la devi avere, almeno 3-4 anni lì. Qua ce l'avevo una vita io. Sì, ma quando sei rientrato, cosa sei? Un anno ci sei? All'incirca. Devi essere almeno 3-4 anni per essere residente tu, più lì, che non ti si possono togliere dai. Ah, scherzi, a me qua non mi butta fuori più nessuno. Adesso c'ho la residenza, è venuto anche il vigile, tutto. C'ho la residenza 100%, c'ho tutta la documentazione, che la casa sono io. No, comunque vai all'aria e informati bene per essere sicuro. E a Putidini c'è anche un altro discorso, c'è un discorso che, vabbè, poi da casa di babbo, ma cosa si dice? Di mia nonna, adesso è passata tutta a me. Guarda, cari. E cappa, prova che gliel'abbiamo fatto perché hanno visto. Bisogna vedere le leggi come sono adesso, mia. Chi gli ha dato giamba nei gatti, Manuele? E magari non gli hanno fatto pagare nulla perché magari non ha reddito. Ciao Natalino, ciao Cinco, ci sei ancora? Tori. No, non è da spa. Il perito che mi deve, un medico legale che mi deve fare la visita alla settimana, quindi automaticamente a sedere in arrivo, dai. Ma di quella dell'incidente? No, quello che sopporta un damage. Perché ti devono liquidare? Scappa. A me non me l'ha ancora chiamato. Io l'ho chiusa il 19 ottobre, il 2 settembre è successo. Quindi, mi hanno detto, 2-3 mesi, infatti, 3 mesi. Ti prenderai quei 5.000 euro, dai. Lupi, fare. Già, va bene. A me non mi hanno ancora chiamato, io sono stato anche operato e tutto. Sono stato malissimo, sono caduto per colpa loro, ancora non mi hanno pagato il comune. Tu sei caduto nella strada, giusto? Ci sono caduto con la moto per colpa loro. Ho capito, il 50% il comune paga su questi incidenti sulla strada, mentre a me mi pagano il 100% perché l'ho avuto all'interno del Taniti e c'è una sicurezza e c'è un'assicurazione. Dicono, non lo so quanto sarà la cifra, già me ne devono dare soldi perché io sono stato anche operato, ho subito un'operazione, ho subito molte cure mediche. ma anche io sapevo, adesso ci sono parecchio tempo fa, ma è tutti i documenti, ne ha dato l'avvocato. C'è l'agenzia, c'è. Lastre, CD, tutto c'è. Tutto ciò. Deve avere l'agenzia, non tu. Tu dove sei venuta? Cosa? Dove sei venuta l'agenzia che cui l'hai dato? Allora, siccome non ti hanno chiamato, tu l'hai avuto molto prima di me, dice, quindi automaticamente dovresti andare all'agenzia e dire, ma è me, non si sa niente, novità. Vera, ti ho detto, dice che il comune ancora no, non si è mosso. Sì, ma il capo dell'avvocato, a vedere se si muove. E allora? Adesso mi ha già rotto il coglione. Cioè, adesso vici di mandorli di gabbè, non se ne canta a messa, mettere l'avvocato, cosa me ne ha fotte. Tatanio, vai, stai tu. Si è sentato. Spesso l'hai spento una parte e dentro dall'altra. E purtroppo gli dirà sono scimmi. Più spendi più rientrano. Beata a te, cazzo che vedrai e pendine, Tony. Beata a me. E quello della pensione che mi arriva, la pensioncina, poi, tra l'altro, quello che mi è successo non è colpa mia, mia Emanuele. No, questo è un gioco che ho occupato, cazzo, te l'aveva fatto. No, a parte quello, chi so cosa dovrei pagare, lì chi so quello di là, perché io ho chiesto 50.000 euro, chiesto. Poi vediamo. L'altro che sono caduto, mi ha telefonato addirittura quello che fa le verifiche se veramente io sono caduto, ti ascolta. Io non so comanco a scioppiarmi, avevi qualche 2 lire, per cortesia non mi faccio arrabbiare, poi divento pazzo, quindi. E allora niente, poi ha avuto la testimone che neanche per la posta c'era una dottoressa dell'ASL, col marito facendo la spesa. Gli volevo il numero di telefono al testimone, ma un attimo, prima la chiamo, se vuole che gli do il numero di telefono sulla chiamata, sì sì mi faccio chiamare. E l'ho dato, poi dopo 3 quarti d'ora mi ha chiamato la dottoressa, l'ha fatto, sì mi hanno chiesto che punto era successo, ha detto sì, me l'hanno chiesto anche a me, ma io ho detto, e non lo sapevo, non mi ricordavo più, quindi, ha detto nella via dove c'è l'ascensore praticamente. E gli ha detto tutte, le ha mandato anche le foto, perché lì me le ha fatte le foto, che erano rubini di Saburone e trovate, e anche il naso è scioppiato. Quindi poi all'agenzia l'hanno preparato, dice sì sì è tutto regolare, non si preoccupi, accidenti. Se tu vi date la rete vedrai come ti chiamavano subito. Capirai. Vabbè, speriamo che insomma quest'anno sia più fortunato, Pedro Gattevicia vince 500.000 euro. Sì, te lo auguro. Speriamo bene. Speriamo che mi paghino quello che mi devono pagare, almeno mi saldo tutti i debiti. E si ammazza di tutti i canti da voi. A chi non, che quando sono entrato che c'è a casa verrà un casino che non ti dico. Lo sto risolvendo piano piano. E poi che casino c'era tu? Sì, vera, mille passa euro di acqua a pagare, altrettanto di affitti. Da voi ogni tanto c'è una sorpresa, cioè. Guarda, oggi vado a fare la giacenza, vado a scoprire che c'era un'altra carta con intestata che nemmeno me ne ricordavo. Andare in voce, ando, intendi la scena, dice, ma lei qua, mi hanno detto che praticamente adesso deve aspettare 3 mesi, deve aspettare, perché ci sono più di 600 euro ci sono dentro questa carta, e io non ne sapevo nulla, chissà che ti dina avvisò e non esabbia nulla. Questo è mio padre. Vabbè, vuol dire che prima non poteva lui a tu. Ah, lo so, guro. Ah, non poteva, però mi avvia redina. Vabbè. Faccia la mia sua. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Ma quello che puoi prelevare? Fra 3 mesi sì, ad aprile, dopo il 12 aprile, devo andare a farmi la carta io e mi date tutti i cantieri di là. Se era stata roba di poco, in un mese ce l'avrei avuta, ma devo aspettare 3 mesi, devo aspettare che si sblocchino le situazioni. Dici che c'è da 600 euro in su quando è così. Chissà che ti di là avviso e non sappia nulla. Dai a tu, dividiamo? Io sono povero. Che cosa c'ho con ricco io? Vabbè, anche te gli affari te l'avremmo, va. Allora ce va bene, guarda. Anche due, con le cipolle, mi raccomando. No, uno con le cipolle, metà cipolle, metà salsiccia. Andava. Cavolo, da quando me la sono coprendo in casa e scendi buonissima, qua mi sono messo anche la pietra per cucinare più bene nel forno. E uscendo una gannonata, buona, croccante. Già va bene, niente, se no tu ci comprendo, no, domani me la compro la farina di cicci. Ogni tanto, dai, mica ogni giorno, se ho due, tre mucche alla dieta, mi nausea. Sto me ne sono crepato una teglia da solo. E scommetto quando si è andato in mezzo ha fatto un malloppo. Ma lo sa, da quando me la sto facendo in casa non mi fa male. E beh, ci metti la cosa giusta, anche se la zimona anche in mezzo. È più buono, lo so, e beh, quando lo fai in casa tu e non trovi le maniche. Io dopo quando l'ho fatta, tu, troppo buono, non mi rimane nessuno lo stomaco. Non mi fa nulla, la mia, ma i ne che faccio a casa, non mi fa di nulla, che andate da chi si digradia, di come sta gente in bagno che non ne avvini più. Ma noi tu lavorando sai, no? Sì, che sai, sì, devo entrare domani a Manzano, quando mi hai chiamato tu nel servizio. Ma adesso sei a casa tua? Sì. Secondo me il piede è più forte, adesso un po' leggermente più basso. Già ne so, per sempre così è. Oh, ogni traccia è fare. Ma la radio dici? Segnale. È sempre così, sai. La radio è ottima. Sempre così, non ho toccato niente. Io accendo il buco, non tocco più nulla, non mi vale la pena caivi a regurarla. Capito. Anto, e a te bene ti sto arrivando? A voglia. Mi segnano, penso che siano 25, le lineette mi segnano qua, perché c'ho il portatile. No, è radio, buono, Buonissima. Ok, va bene. Niente, mi devo cercare, ma noi, mi ha detto questa signora che ho fatta, del medico legale, che devo avere i CD dell'ospedale che mi hanno fatto la radiografia, eccetera, eccetera, ginocchio, eccetera. Se no, dice, non può farmi la visita. È un po' che si abbindona, perché gli ho detto, scusi, io ho avuto altri incidenti tempo fa, però tutta questa roba che lei mi sta chiedendo, a me non me l'hanno mai chiesta. E ascolti, allora, io dico lì al medico legale che tutta questa roba che sta chiedendo, no, guarda, è questa una domanda che ho fatto tra me e lei, non è che lei si è avuto a dire, la chiedo al dottore, e al dottore devo chiedere niente, mi chiede poi, l'ho chiesto, ma è cerco, poi l'agenzia sarà a darmi tutto il resto, perché dopo sai, l'agenzia mi darà i documenti storici, Antonello lo va a chiamare. E quindi li devi portare al dischetto. Il dischetto è tutto il documento, con la trasferale, della planta e tutto l'altro, che gira in palluzze. E non ce l'hai quella? Sì, ma tutto il resto poi c'è la dimissione, della trasferale, tutto quanto c'è l'agenzia, tutto copia loro, capito? Che seriale. Ma com'è che io c'ho la stampante?